Sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Bocciato il piano Bush, l'America trema e lavora al piano B. L'Europa incalza, la Casa Bianca si assuma le sue responsabilità. E dopo il lunedì nero le borse europee provano a tirare il fiato. Blitz all'alba, in carcere, killer di Castelvolturno. Maroni, la guerra continuerà finché non sarà vinta. Inflazione in calo a settembre al 3,8%. Il peggio è davvero passato? Vicenza al voto per la base di Ederle, ma già oggi l'area passerà agli americani. Tra poco Excel e il commissario straordinario Paolo Costa. Ressa di fedeli in un tempio indù, crolla un muro, 180 i morti. Gli italiani nel mondo sono quasi 4 milioni, 60 milioni quelli con origini nel bel paese. Sono giovani, laureati e non hanno alcuna intenzione di tornare. On this vote, the yeas are 205, the nays are 228. The motion is not adopted. GR Stralarge, buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno da Anna Migliorati. Quelle che avete sentito sono le parole del speaker della Camera americana Nancy Pelosi, che ha annunciato ieri, come sapete, la bocciatura del piano di salvataggio finanziario da 700 miliardi di dollari. Non è servito dunque il messaggio lanciato poche ore prima da parte del presidente americano Bush, che tra l'altro vi abbiamo fatto sentire ieri in diretta in Extra Large. Non tutto è concluso, perché il leader democratici del Congresso starebbero già, per la verità, organizzando una seconda votazione nella speranza di poter far cambiare voto ad almeno 10 parlamentari. Si potrebbe rivotare giovedì, ma intanto le conseguenze ci sono state. Wall Street è crollata con il listino del Dow Jones, sceso di quasi 800 punti, il maggior crollo di sempre in termini di punti per il listino. Bush riparlerà oggi alle 14.45, ora italiana. Sentiremo cosa avrà da dire, ma intanto c'è anche l'Europa. Sì, la Commissione Europea si aspetta che le autorità americane vadano avanti presto con le decisioni che erano state prese e si assumano dunque le loro responsabilità, l'ha detto questa mattina il portavoce della Commissione Europea. E allora cominciamo da qua, Alessandro Platerotti, buongiorno. Buongiorno. Allora, quali potrebbero essere le prossime mosse, soprattutto da parte americana? Si dice che potrebbe esserci un tentativo di riproporre il piano Bush, Alessandro. Sì, c'è stato sicuramente un segnale politico molto forte verso la Casa Bianca, ma a mio avviso c'è stato anche un segnale di dissenso su come è stata gestita dalle autorità, dal governo e dalla Federal Reserve la politica dei salvataggi. Questo è ovvio, quello era un piano che puntava, il piano Bush, era un piano che puntava a salvare le banche e ricordando di tutti gli asset malati, quelli che ormai noi definiamo come asset tossici. Questo aver fatto naufragare quel piano ha avuto come ripercussione immediata, ed è bene tenerlo presente, era un piano da 700 miliardi che ha avuto un costo immediato solo sui mercati americani di 1.000 miliardi di dollari, un trilione di capitalizzazione bruciata. Quindi vediamo che il costo è stato immediatamente enorme, questo senza contare l'impatto di altri mercati finanziari. Quindi è ovvio che l'America a questo punto si dovrà porre una questione. Se questa bocciatura significa che il legislatore, la classe politica americana, vuole dei salvataggi, delle nazionalizzazioni vere e proprie, come il trend che si sta affermando ormai a livello mondiale, e quindi basta con la politica, diciamo così, delle fusioni incentivate, e quindi arrivare alle nazionalizzazioni, perché non c'è più altra alternativa a questo punto, o altrimenti rimettere in piedi un minimo di programma, diciamo così, con caratteristiche diverse. Io credo che nel bilanciamento tra democratici e repubblicani sarà importante vedere se viene ridefinito il tentativo di salvataggio sociale, perché non dimentichiamoci che rispetto alla prima bozza del piano Paulson, del piano Bush come lo vogliamo chiamare, in questa ultima versione c'era un'enfasi maggiore sulla protezione del consumatore. Ora bisognerà vedere anche questo bilanciamento o quanto ha pesato. Certo è comunque che quel piano è stato un po', diciamo così, tra virgolette, inquinato da altri elementi di sistema che nulla c'entravano con le banche. Alessandro, quando hanno influito le elezioni così vicine? Beh, certamente le elezioni condizionano, tanto in America quanto in Italia o in ogni paese, in ogni parte del mondo, le elezioni sono sempre un condizionamento, l'abbiamo visto anche noi nell'esperienza, anche nel caso dell'Italia, di come è finita naturalmente, per fare poi dei passi indietro. Probabilmente sarà anche lì così. Certo è che questa è una campagna elettorale particolare, è una campagna elettorale che si sta dimostrando fatta da candidati, soprattutto da parte repubblicana, che nascono o nascevano nel segno di una continuità repubblicana, una continuità di politica fra Bush e McCain che adesso si è rotto un equilibrio indubbiamente negli ultimi giorni. Ora bisognerà vedere come verrà ricomposto da parte repubblicana. Da parte democratica, beh, la questione lì è, in questo senso è più semplice. C'era un solo candidato, rimane soltanto Obama. McCain non aveva convinto tutta l'ala più forte del partito repubblicano e tra l'altro soprattutto la componente, quella della cattolica più fondamentalista, chiamiamola così. Negli ultimi giorni abbiamo rivisto uscire allo scoperto personaggi che erano dimenticati da anni, penso a Newt Gingrich per esempio. Gingrich è un conservatore molto molto molto spinto, negli ultimi giorni è ritornato in superficie. Bisognerà vedere quanto la parte della destra repubblicana riuscirà a condizionare il resto di questa campagna elettorale. Staremo a vedere. Grazie Alessandro Platerotti, collega del Sole 24 Ore. Fin qua l'America, adesso veniamo in Europa e cerchiamo di vedere com'è la giornata in borsa. Ridiamo la linea a Deborah Rosciani, che tra l'altro da poco ho finito di condurre Salva Danaio. Infatti sì, buongiorno. Allora, i nervi sono ancora tesissimi anche in Europa, i listini europei si stanno aggrappando a quell'ipotesi che avete citato anche all'inizio trasmissione, che in qualche maniera comunque il piano Bush possa passare al Congresso, anche se modificato e emendato. In ogni caso il mercato chiede un sostegno di questo genere. Peraltro questa mattina in Europa, fra gli operatori, lo abbiamo visto anche a Piazza Affari, cominciava a circolare la voce anche di una possibile azione congiunta da parte delle maggiori banche centrali per un taglio più o meno immediato, forse nei prossimi giorni, dei tassi di interesse, anche se c'è un certo scetticismo sull'utilità di questa riduzione del costo del denaro. Ecco la situazione. Allora, in avvio stamattina la borsa europea scendeva di nuovo pesantemente di circa 2,5 punti. Poi i listini si sono tutti risollevati e quindi stanno tentando di rimbalzare, sostenuti evidentemente da quei titoli che ieri hanno subito le perdite più pesanti, sui quali i mercati, i gestori, gli investitori si stanno riposizionando pesantemente quest'oggi. In questo momento è positiva Londra, più 0,5. Francoforte, la più pesante, sta perdendo invece ancora l'1,23%. Parigi, meno 0,4. Qua è in corso il salvataggio di un altro grande colosso bancario, Dexia. Piazza Affari, abbiamo una situazione ancora negativa, meno 0,7%. Questa è la situazione. A voi la linea. Grazie Deborah Rosciani. C'è da aggiungere la presa di posizione del presidente di Confindustria Emma Marcegaglia. È necessaria, dice, una presa di posizione comune e forte da parte delle istituzioni europee e della Banca Centrale Europea. La Marcegaglia, tra l'altro, nel pomeriggio sarà a Parigi per parlare di questi temi insieme agli altri presidenti delle Confindustrie europee, con il presidente di turno dell'Unione, il francese Sarkozy. America, Europa e stringiamo il quadro Italia. Che cosa stanno facendo le autorità finanziarie italiane? Oggi è tornato a riunirsi il Comitato per la Stabilità Economica e Finanziaria, presieduto dal Ministro Tremonti. Tra l'altro oggi sul fronte economico anche il dato sull'inflazione. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Notizia di pochi istanti fa, un comunicato del Tesoro che garantisce le conseguenze del sistema bancario e assicurativo italiano rimangono contenute e la situazione di liquidità delle banche italiane è adeguata. Queste dunque le parole del Ministero dell'Economia pochi istanti fa. È la terza riunione, lo ricordiamo, in poco più di 10 giorni per il comitato che ha visto qui al Ministero dell'Economia riuniti intorno allo stesso tavolo il Ministro Tremonti, il Direttore Generale del Tesoro Grilli, il Governatore della Banca d'Italia Draghi, il Presidente della Consob Cardia e il Presidente dell'ISVAP Giannini. I vertici istituzionali dunque del sistema finanziario creditizio sono di nuovo alle prese con quanto sta succedendo ormai non solo negli Stati Uniti ma anche in Europa. C'è preoccupazione ma nessun allarme, quindi per gli effetti che si potrebbero avere nel nostro paese. Si è più volte fatto notare che l'Italia ha regole forse più ferree di altre realtà internazionali, con banche meno esposte su prodotti a rischio. Da valutare in termini di andamento dell'economia vi è poi oggi il dato dell'inflazione, 3,8% a settembre contro il 4,1% di agosto, un rallentamento quindi del costo della vita, nonostante non si fermi la corsa dei prezzi di alimentari, libri scolastici e servizi telefonici. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta, vi ricordiamo che dell'inflazione torneremo a occuparci più avanti alle 13.30 nel corso del classico approfondimento economico all'interno di Extra Large. E veniamo all'altra notizia di oggi, il duro colpo contro i casalesi, il blitz all'alba nel Casertano. 3 latitanti eccellenti, la moglie di un boss e più di 100 persone sono state arrestate in 2 distinte operazioni anticamorra. Si tratta di capi e gregari del clan dei Casalesi. In manette sono finiti anche Oreste Spagnuolo, Giovanni Letizia e Alessandro Cirillo, sospettati di avere fatto parte del gruppo di fuoco responsabile della strage di immigrati di Castel Volturno. All'arrivo dei carabinieri, i 3 ritenuti vicini al gruppo Bidognetti non hanno opposto resistenza. Uno di loro si è persino complimentato con le forze dell'ordine. I militari hanno anche rinvenuto armi che saranno ora esaminate per accertare se siano state usate in recenti omicidi. Nell'altra operazione, tra gli altri, è stata arrestata Giuseppina Nappa, moglie del boss dei Casalesi Francesco Schiavone, e tra i destinatari ancora latitanti figurano nomi eccellenti del clan: Antonio Iovine, Mario Caterino e Nicola Panaro. Contestualmente agli arresti, la Guardia di Finanza sta eseguendo una serie di sequestri di beni per un valore di oltre 100 milioni di euro, riconducibili ai Casalesi. Enzo Danna, GR24, Il Sole 24 Ore, Napoli. E poco fa sono arrivate anche le parole del ministro degli interni Maroni a Palazzo Chigi, sentiamolo. Un giorno da mettere negli annali. Lo Stato c'è, che interviene in modo efficace e che soprattutto vuole riprendere il controllo del territorio. Questa pressione continuerà, non sarà per poche settimane, non è un'operazione solo di reazione a ciò che è avvenuto, alla strage, ma è un'operazione questa volta che continuerà nel tempo fino a che la guerra contro la Camorra non sarà vinta. Siamo determinati, l'operazione di questa notte è la prima e importante risposta che lo Stato dà a questa vera e propria guerra dichiarata dalla Camorra contro lo Stato e contro la società. Un duro colpo ai Casalesi, che non è solo in termini di arresti, ma anche alla cassaforte dei clan. Ma qual è il loro giro d'affari? Paolo Panceri ne ha parlato con Gigi Di Fiore, giornalista del Mattino di Napoli, che sui Casalesi ha scritto un libro, L'Impero, da poco in libreria. Attualmente gli introiti principali del clan dei Casalesi sono le estorsioni, che sono estorsioni a tappeto su ogni attività economica, piccola e grande. Il grosso dei guadagni negli anni passati sono stati da infiltrazioni negli grandi appalti pubblici che hanno riguardato la zona, e sarebbe l'alta velocità, il disinquinamento dei reggilagni, la costruzione del carcere di Santa Maria Capovetere, con aziende di calcestruzzo e con richieste di tangenti accordi con gli stessi imprenditori. Da lì è nato un flusso di denaro enorme reinvestito in molte attività. Nei uomini di vertice del clan dei Casalesi c'è una suddivisione di affari, così c'è Antonio Iovine insieme con Bidognetti, che per un certo periodo hanno investito nel traffico di rifiuti tossici in regione. C'è Zagaria, che invece ha preferito l'infiltrazione nei grossi appalti pubblici anche nel nord dell'Italia, in molte regioni e anche all'estero, e lo stesso Iovine adesso ha reinvestito con i suoi uomini e con il suo gruppo molto nel settore dei servizi, quindi negozi, quindi attività di ristorazione, quindi bar. È possibile quantificare il giro d'affari del clan? Attualmente si può quantificare certamente in decine di milioni di euro, approssimato per difetto, proprio perché è stato un flusso di denaro che è stato reinvestito nel tempo, sia sul territorio con aziende di bufale e altre attività, che fuori. La particolarità di questo clan dei Casalesi è soprattutto questa provincializzazione che li ha portati a investire fuori regione, fuori provincia. Hanno cominciato prima con il Lazio, con la vicina provincia di Latina, poi si sono estesi nel Sud America, nell'Europa dell'Est e nella Spagna e nel Portogallo. Attualmente una delle nuove frontiere, e sono stati arrestati anche degli esponenti di spicco lì, è l'Europa dell'Est, che è un mercato tutto da scoprire e su cui si sono riversati molti dei soldi sporchi guadagnati soprattutto con le estorsioni. Una volta tanto non è la Toscana, la regione toscana, a far parlare di sé come regione in grado di attirare gli investimenti stranieri. Questa volta la protagonista è la Calabria e gli inglesi. Sentiamo. La Calabria, come il Chianti o le Langhe, a giudicare da cifre e segnali si direbbe di sì. La regione, tante volte al centro delle cronache al punto da essere reta simbolo di ritardi e illegalità, ha vissuto un vero e proprio boom di interesse da parte degli stranieri, in particolare degli inglesi, che hanno scelto di comprare qui la loro seconda casa. A raccontare un pezzo di questo boom è Lorenzo Lucanto, manager di Calabria Real Estate, agenzia immobiliare che ha seguito l'esempio delle concorrenti straniere. Lucanto ha portato a Lorica, sede del Parco Nazionale della Sila, 40 famiglie inglesi che hanno comprato casa nel cuore ancora incontaminato della montagna calabrese. Noi li abbiamo contattati tramite agenzie e li abbiamo portati a nostre spese sul posto, gli abbiamo fatto vivere un po' quella che era la montagna calabrese, per cui l'inverno, l'estate, la tranquillità, tra l'altro è un posto assolutamente splendido, per cui su un lago la cosa è piaciuta, i prezzi erano convenienti, insomma hanno comprato tranquillamente, e continuano a venire, a affittare, quindi si potrebbe riavviare, diciamo, un'economia che stenta assolutamente a partire da anni. Negli ultimi 3 anni, continua Lucanto, sono 3.000 le seconde case vendute a stranieri in Calabria. Molte al mare, certo, ma non solo. Ora però il fenomeno è a rischio, un po' per colpa della crisi, un po' perché molti voli sono stati cancellati. C'era un volo diretto che era, secondo me, la ragione principe per cui queste persone sono venute da Londra in Sila, e cioè che c'era un volo diretto da Londra fino a Lamezia. Adesso questo volo l'hanno cancellato. Paolo Piacenza, GR24, Il Sole 24 Ore. Alle 14.45 in Italia, saranno le 8.45 a Washington, un nuovo discorso del presidente degli Stati Uniti George Bush dopo l'impasse di ieri al congresso sul piano salva economia. L'Europa intanto incalza, le autorità americane si assumano le responsabilità, ha detto questa mattina il portavoce della Commissione. Nuovo blitz contro il clan dei Casalesi, 127 in carcere, presi anche i killer della strage di Castel Volturno, sequestrati beni per 100 milioni di euro. Il ministro Maroni, una giornata da incorniciare, ma la guerra continuerà fino alla fine. Inflazione al 3,8% secondo l'Istat a settembre, è la prima frenata dopo 7 mesi di continua crescita fino al record del 4,1% raggiunto ad agosto. Crescono i prezzi di istruzione e abbigliamento, calano quelli dei trasporti e delle comunicazioni. Vicenza al voto per la base di Ederle, ma già oggi l'area sarà in mano agli americani. Tra poco XL e il commissario straordinario Paolo Costa. E partiamo proprio da quest'ultima notizia, perché è proprio da oggi che l'area a Vicenza, l'area interessata per la costruzione e l'allargamento della base americana, l'area del Dal Molin, viene consegnata al comandante militare italiano della base, che la rende disponibile però per gli Stati Uniti, dunque per costruirci il tanto discusso allargamento della base americana. Ne parliamo proprio col commissario di governo Paolo Costa, buongiorno. Buongiorno. Iniziamo proprio da questi aspetti. Che ne è adesso di quel territorio, Costa? Niente, questa mattina del grande compendio del Dal Molin, una parte più o meno coincidente con quella che era prima utilizzata dall'Aeronautica Militare Italiana, dall'ATAF, quindi viene invece messa a disposizione degli Stati Uniti perché gli si rimpiazzi con la 180esima brigata, e quindi comunque per ampliare la loro base di Vicenza. Il resto resta in disponibilità dell'ENAC, l'ente nazionale che è molto noto per la vicenda dell'Italia di questi giorni, in modo tale che il resto dell'area possa riospitare un'attività civile, diciamo aeroportuale, per la quale, questa è la seconda notizia che abbiamo dato oggi, è stato predisposto dall'Aeronautica Militare Italiana e regalato quindi all'aviazione civile attraverso l'ENAC un progetto preliminare di pista che verrà spostata e ricostruita moderna, in modo tale da poter consentire tutte le attività di volo non commerciale su quest'area, come si addice a un aeroporto che nel Veneto stretto tra Verona e Venezia non può essere altro che adibito a questi scopi. E quindi ci ha dato anche una notizia. A questo punto, allora, per chiudere questo capitolo, a che punto sono nella pratica i lavori? I lavori proseguono, diciamo, il capitolato stabilito a marzo scorso, e quindi i lavori sono guidati da un progetto base, come si dice nel gergo dell'accordo italo-americano, che è stato approvato il 4 gennaio scorso. Adesso si dovranno fare i definitivi, che stanno per essere redatti dal soggetto che la CMC di Ravenna, che ha vinto la gara d'appalto, che sta, come c'era il contratto, che li sta preparando. Quando i progetti definitivi erano approvati, si cominciano i lavori. Intanto si stanno facendo le attività parallele di preparazione del cantiere, che sono la bonifica bellica, la bonifica ambientale e tutto ciò, e poi a seguire le demolizioni di quella parte del complesso usato dalla difesa italiana, che non verrà riutilizzato dagli americani. Sappiamo però anche che domenica a Vicenza c'è il tanto discusso referendum voluto dal sindaco per sondare gli umori della città. Qualora il risultato dovesse essere di un parere negativo, perché in caso di parere positivo non ci dovrebbero essere conflitti di competenze e interferenze, qualora il risultato fosse quello, ci sarebbe un rischio di interferenza? Il referendum è consultivo, però, commissario? Se il referendum fosse stato un referendum di scala nazionale, cioè se avessimo chiesto all'Italia se voleva o non voleva la base di Vicenza, trattandosi di una decisione di livello nazionale, avremmo dovuto fermarci di fronte a un'espressione della democrazia diretta rispetto a quella rappresentativa presentata dal Parlamento. Ma trattandosi di una decisione di carattere nazionale che è stata presa nelle forme dovute e ascoltando anche Vicenza quando aveva il diritto dovere di parlare, cioè lo scorso anno, è evidente che siamo di fronte a quello che anche il Tribunale Amministrativo Regionale in questi giorni ha definito un sondaggio che il Comune fa per decidere i suoi atteggiamenti. Devo anche dire che siccome non poteva sottoporre a referendum base sì, base no, il quesito è abbastanza bizzarro ed è: volete che compriamo un'area dallo Stato? È una domanda un po' retorica, perché lo Stato, sotto forma di due lettere del Presidente del Consiglio e del Ministro della Difesa, hanno già risposto che l'area non è in vendita. E ricordiamo anche che il referendum peraltro è consultivo e quindi in realtà non ha un effetto immediato. Questo ma è consultivo per l'amministrazione comunale, la quale, come dire, l'amministrazione comunale come istituzione, il suo parere sul procedimento lo ha reso, e lo ha reso nelle sedi competenti, che sono quelle di un comitato misto tra regione e ministeri che decidono di queste installazioni militari, lo ha fatto l'anno scorso ha dato parere positivo. Grazie allora al commissario di governo per la base Ederle, Paolo Costa, per essere stato con noi, buona giornata. Grazie, arrivederci. E andiamo con una vignetta di Giannelli sulla prima pagina del Corriere. C'è Maria Stella Gelmini con in mano che tiene per mano, attraversando la strada, Giorgio Napolitano vestito da scolaretto. Bravo Giorgio, dammi una mano. Sapete che ieri Napolitano ha detto indispensabili i tagli alla scuola, avallando quindi indirettamente la politica della Gelmini, da qua la vignetta di Giannelli. La notizia è che oggi proseguono i lavori in Parlamento per l'approvazione l'esame del decreto che contiene le novità della Gelmini per quanto riguarda la scuola. Domani invece, dopo mesi di polemiche, verrà svelato il programma del Festival di Roma. Una novità già c'è ed è che Gianluigi Rondi ha preso il testimone di Goffredo Bettini alla guida della rassegna. Io so come si fanno i festival, mentre non ho grande pratica delle feste. Del resto, la festa di Roma si chiamava festa forse perché non volevano dare fastidio ad altre manifestazioni, ma in realtà era un festival. Ho cambiato il nome, dice Gianluigi Rondi, ma non la struttura né la sostanza. Questo significa che il nome forse non era così adatto. Mancano meno di 24 ore dall'annuncio del programma del nuovo Festival Internazionale del Film di Roma, ex Festa del Cinema. Appare quindi l'aggettivo internazionale, quasi a rispondere alle critiche preventive che erano arrivate fin dai giorni dell'elezione a sindaco di Gianni Alemanno, che voleva un festival italiano. Di italiano sicuramente per la prima volta il film d'apertura di Maria Sole Tognazzi. Italiane alcune nuove denominazioni delle sezioni, come The Business Street, che diventa semplicemente mercato internazionale del film. Ma le star hollywoodiane, Rondi, giura, ci saranno, e anche il tappeto rosso, ma solo se sarà coerente con i film presentati. Basta star super pagate praticamente solo per sfilare. E l'ultima polemica, la presunta bocciatura di W di Oliver Stone perché non gradito a Berlusconi, Rondi smentisce. Per la prima volta nella mia lunga carriera ho detto: prendiamo una scatola chiusa. 10 giorni dopo ho avuto un messaggio molto gentile in cui mi dicevano che andavano al Festival di Londra. Domani si svelerà il programma e poi ancora 3 settimane di sole chiacchiere in attesa finalmente del buio in sala. Marta Cagnola, GR24, il sole 24 ore. Tra un'ora nuovo discorso del presidente degli Stati Uniti Bush dopo l'impasse di ieri al Congresso sul piano salva economia. L'Europa incalza, le autorità americane si assumano le loro responsabilità. Nuovo blitz contro il clan dei Casalesi, presi anche i killer della strage di Castel Volturno. Maroni, una giornata da incorniciare, ma la guerra continuerà fino alla fine. Inflazione al 3,8% secondo l'Istat a settembre, la prima frenata dopo 7 mesi di continua crescita fino al record del 4,1% ad agosto. Il ministro Alfano difende il lodo, il rischio, dice, è lo scontro sociale con i magistrati. Ressa di fedeli in un tempio indù, crolla un muro, quasi 180 i morti. Giovani e laureati, sono quasi 4 milioni gli italiani nel mondo fotografati nel rapporto della Fondazione Migrantes. Ad aprire l'approfondimento economico, una vignetta su Avvenire, il dialogo è tempi magri per le borse, per non parlare poi delle sporte, i due lati dunque dell'economia, quella finanziaria e quella reale. Abbiamo già detto del dato dell'inflazione al 3,8%, il dato dell'Istat, crescono i prezzi dell'istruzione e dell'abbigliamento, calano, ed è decisivo questo fattore, quello dei trasporti e delle comunicazioni. Il commento di Donato Berardi, economista del REF. Questa discesa dell'inflazione era in buona misura attesa, nel senso che riflette crucialmente il calo delle quotazioni del petrolio, quindi è una discesa che, anche se si guardano i capitoli di spesa del comunicato stampa Istat, si vede viene crucialmente dai trasporti. E viene dai trasporti e quindi dal calo delle benzine, dal calo dei carburanti. Il calo, quindi il cambiamento di tendenza, sicuramente è un dato nuovo che probabilmente è destinato a protrarsi nei prossimi mesi. In qualche misura questa discesa però potrebbe non essere così rapida come ce la si poteva aspettare qualche mese fa, questo perché, come abbiamo visto, il petrolio ha fatto una forte discesa nel mese di agosto e all'inizio di settembre, ma è già nelle ultime settimane si è stabilizzato intorno ai $100, quindi è una discesa, se vogliamo, fisiologica, che viene dal fatto che gli alimentari erano molto aumentati lo scorso autunno e quest'anno stanno ancora aumentando, ma aumentano con ritmi inferiori. È un rallentamento dell'inflazione che ci porterà probabilmente da qui a fine anno ad avere un'inflazione di grosso modo di mezzo punto percentuale in meno. Professore, può esserci un legame con l'andamento dei mercati internazionali e la crisi che stanno vivendo in queste settimane con questo rallentamento dell'inflazione? In qualche misura sì, nel senso che la forte ascesa, se uno ricorda, dei prezzi dei prodotti alimentari dello scorso anno venne appunto dalle tensioni internazionali sui prezzi delle materie prime, e in questi mesi sono proprio le materie prime che stanno dando dei segnali di distensione, cioè l'inflazione rallenta perché i prezzi delle materie prime alimentari si stanno normalizzando e dall'altra parte si normalizzano le quotazioni del petrolio. Quindi non sono mercati finanziari in senso stretto, ma sappiamo bene che i mercati delle commodity spesso e volentieri sono mercati finanziarizzati, e in questo caso e in questo senso questo calo dell'inflazione può essere inserito in questo concetto di domanda internazionale, di ciclo internazionale che sicuramente si sgonfia. E c'è un'ultima ora che riguarda il leader del Partito Democratico, Walter Veltroni, risposte alle dichiarazioni di Berlusconi dal Premier, insulti e balle, quello che avrebbe detto poco fa, che ha detto poco fa il leader del Partito Democratico. Vediamo, l'agenzia dice: Berlusconi passa metà del suo tempo ad insultare l'opposizione, fino ad oggi, quando arriva a dire tre bugie, tre balle per ingannare gli italiani in una strategia di contrapposizione frontale con chi la pensa in modo diverso da lui. Questo dunque Veltroni su Berlusconi. Berlusconi-Veltroni, attacchi incrociati che certo non serenano il clima, mentre si parla di riforme ed è il ministro della giustizia Alfano a intervenire oggi nella polemica sull'immunità alle alte cariche dello Stato, dopo che il pubblico ministero di Milano ha chiesto l'incostituzionalità del lodo che porta il suo nome. Sentiamo Alfano. C'è un PM che in pubblica udienza ha definito una legge della Repubblica criminogena. Credo che sia la cartina al tornasole di come alcuni PM non intendano riconoscere la sovranità del Parlamento. Siamo sereni e fiduciosi in attesa del giudizio della Corte Costituzionale, perché riteniamo di avere scritto una legge in pieno rispetto delle indicazioni di una precedente sentenza della Consulta. La giustizia in Italia non funziona. Abbiamo milioni di cittadini in attesa di un riscontro da parte dello Stato in termini di giustizia. Crediamo che questa attesa dei cittadini possa avere una risposta da parte nostra con delle riforme che accelerino il processo e rendano più giusta la giustizia italiana. Pensiamo che a questo nostro programma riformatore un contributo lo debbano dare tutti e speriamo che il Partito Democratico dia un indirizzo proprio in materia di giustizia che non sia la fotocopia delle indicazioni della ANM. E i tagli economici alla spesa pubblica, come sappiamo, toccano anche proprio l'amministrazione della giustizia, dove il governo ha previsto risparmi per il 10% del bilancio. Fino a 300 persone in meno, i cancellieri della Corte d'Appello proprio di Milano lanciano l'allarme pratico sul loro deficit di organico, che dicono potrebbe peggiorare ancora con i previsti tagli appunto della finanziaria. Talmente pochi e preziosi, quasi una chimera per molti magistrati da essere accolti anche per poche ore, autorizzati a part-time dei più arditi per cercare di tamponare la giustizia alluvionata. Sono i cancellieri di procure e tribunali e questa è la situazione del Palazzo di Milano. Si spiega così che, piuttosto che niente, alcuni cancellieri, per ragioni personali e esigenze di vario tipo, lavorino solo in specifici giorni. Così c'è chi c'è dal primo lunedì al secondo martedì di ogni mese, chi solo al mattino, chi a inizio settimana e chi solo da giovedì a sabato. Uno ha dato delle disponibilità ben precise, dal 2 febbraio al 6 marzo, poi dal 1 maggio al 7 giugno, quindi dal 25 ottobre al 7 dicembre, date che chiunque confidi in un appuntamento non può che segnarle rigorosamente sull'agenda, impossibile mandarle a memoria. Con collaboratori così intermittenti, commentano dei PM, è impossibile qualsiasi lavoro serio e il quadro rischia di peggiorare ancora col taglio del 10% previsto dal Ministero dell'Economia, una riduzione che va ad incidere su una carenza già oltre il 30%. E mentre diventa difficile trovare PC che funzionino e materiale di cancelleria, c'è chi prevede che presto anche il cancelliere tampone part-time sarà un lusso per pochi uffici. Raffaella Calandra, GR24, sulle 24 ore. E adesso andiamo, come anticipato, in India, dove è salito a oltre 180 il bilancio delle vittime schiacciate dalla folla in un tempio indù, dove ben 12.000 fedeli celebravano il primo dei 9 giorni di preghiera in onore della dea Durga. La calca si sarebbe formata all'arrivo di un politico all'ingresso del tempio di Chamunda Devi, nel cuore dell'antica fortezza che sovrasta la città di Jodhpur, meta turistica dello stato del Rajasthan, dove i pellegrini si erano riuniti in preghiera fin dall'alba. Quando la scorta ha cercato di far allontanare la folla, si sarebbe creato il fuggi-fuggi generale, causato forse dalla paura di un attentato. Così sono morti i fedeli indù, schiacciandosi e calpestandosi l'un l'altro. La maggior parte delle vittime sono donne, accorse numerose per l'inizio della festa del Navaratri, dedicata alla dea che incarna l'energia creativa femminile. Ma il numero delle vittime potrebbe salire ancora. Si continua infatti a scavare fra le macerie di un muro del tempio che avrebbe travolto i partecipanti alle celebrazioni, mentre negli ospedali già scarseggiano sangue e ossigeno. Una situazione resa ancora più grave dalle notizie che giungono dagli stati del Maharashtra e dal Gujarat, sempre nella parte occidentale dell'India, dove nelle stesse ore della mattina alcune bombe sono esplose nei mercati di due città a maggioranza musulmana, uccidendo 6 persone. Maria Chiara Grandis, GR24, Il Sole 24 Ore. Lo sguardo ora al mondo arabo con la rassegna stampa a cura di Adib Fateh Ali. Milioni di musulmani in tutto il mondo festeggiano oggi Eid al-Fitr, la festa che segna la fine del mese di digiuno e il Ramadan. I maggiori quotidiani arabi fanno gli auguri ai lettori e evidenziano come in molti paesi, come Egitto e Iraq, per ragioni di rivalità confessionali, la festa avrà inizio solo domani. Arriva proprio dall'Egitto una clamorosa smentita della versione del Blitz sostenuta dal Cairo per la liberazione dei turisti europei rapiti. Uno degli ex ostaggi egiziani, interpellato da Sheikh Lausata, afferma che la sera prima della liberazione i sequestratori ci hanno lasciati con una sola delle nostre 4 auto e viaggiando per tutta la notte verso est abbiamo trovato le forze egiziane ad attenderci. Sono triste perché lo Stato palestinese non nascerà durante il mio mandato. Lo avrebbe confidato ad Abu Mazen il presidente USA George Bush, come svela ad Al-Sharq al-Awsat il capo dei negoziatori palestinesi. Il presidente iracheno Jalal Talabani, intervistato da Al-Hayat, svela un accordo di principio con Washington. Entro l'anno le truppe USA lasceranno Baghdad per ritirarsi nelle basi fino al 2011 e Teheran comprenderà le nostre ragioni. La musica classica a disposizione di tutti, questo è l'auspicio, nella rassegna Uto Ughi per Roma, decima edizione. 12 concerti offerti al pubblico gratuitamente dal 22 settembre all'8 ottobre. Dopo il debutto dell'Orchestra da Camera dei Filarmonici di Roma con lo stesso Uto Ughi, violino e direttore, si è esibita anche la giovanile Utoughi per Roma. Il direttore è il maestro Bruno Aprea, l'ha intervistato Adriana Fracchia. Praticamente sono 10 anni, compie il decimo anniversario, e io è già il quinto anno che partecipo, con grandissimo piacere, perché questo full immersion con i giovani è una cosa estremamente piacevole per me ogni anno. Full immersion perché l'orchestra è costituita da giovani, molti dei migliori conservatori italiani, il pubblico che usufruisce è in particolare di giovani, quindi è veramente una cosa molto meritoria. Io userò un piccolo stratagemma quest'anno: le 3 ultime sinfonie di Mozart, 3 dei massimi capolavori della storia della musica. Uno di questi è la famosissima sinfonia in sol minore, quella che è famosissima, della quale negli anni, non so se 70 o 80, è stata divulgata un'esecuzione, un arrangiamento in stile pop, ritmo, eccetera. Allora io voglio presentare a questi ragazzi le 2 versioni, quella pop e poi quella originale, e chiedere a loro spassionatamente quale delle 2 preferiscono. Si è pensato a volte, e anch'io ne ho dei dubbi se può essere la chiave positiva o no, di divulgarla attraverso la banalizzazione, com'è mettere una sinfonia, appiccicare a una sinfonia di Mozart un ritmo pop. Ecco, non nascondo delle incertezze, perché effettivamente c'è una divulgazione della melodia, delle cose, e le forme sono totalmente stravolte. E c'è un'ultima ora che riguarda l'emergenza rifiuti in Campania, l'emergenza che non dovrebbe più essere tale, ma insomma, Chiaiano, una manifestazione è stata organizzata davanti al luogo che dovrebbe e dovrà ospitare la discarica di Chiaiano a Napoli. Il sit-in ha bloccato l'ingresso dei camion dell'esercito che si stavano recando nella cava, dove sono in corso i lavori proprio per l'allestimento del sito. Alcune persone, secondo quanto riferisce la questura, sono state portate nella sede del commissariato di Scampia. E c'è un'altra notizia che riguarda invece la trattativa dei contratti. Per il momento solo un flash d'agenzia, cercheremo di saperne di più. Epifani dice: trattativa esaurita, no alla proposta delle imprese. L'Europa incalza le autorità americane, si assumano le loro responsabilità, ha detto questa mattina il portavoce della Commissione alle 14.45 in Italia, alle 8.45 a Washington. Nuovo discorso del presidente americano George Bush. Nuovo blitz contro il clan dei Casalesi, presi anche i killer della strage di Castel Volturno, sequestrati bene per 100 milioni di euro. Chiaiano, nuove proteste degli abitanti contro la discarica, bloccato l'ingresso dei camion dell'esercito. CGIL verso lo strappo, poco fa le parole di Epifani, trattativa esaurita, no a proposta delle imprese sui contratti. Si parla sempre molto naturalmente di immigrazione, un fenomeno che ci riguarda da vicino, ma c'è anche un'altra Italia, un'Italia che parte ed appunto emigra. Quanti sono, chi sono, come vivono i nostri connazionali all'estero? A rispondere a queste domande il terzo rapporto sugli italiani nel mondo promosso dalla Fondazione Migrantes, presentato questa mattina a Roma. Gli italiani all'estero sono 3.734.000. Questa cifra individua i nostri connazionali che risiedono in un paese straniero conservando la cittadinanza italiana con diritto al voto, da non confondere quindi con gli oriundi, che sono circa 60 milioni in tutto il mondo. Il paese con più cittadini italiani è la Germania, seguita da Argentina e Svizzera, mentre la regione con più emigrati è la Sicilia, che conta oltre 600.000 residenti all'estero. Dopo un secolo e mezzo di emigrazione è cambiato il ritratto dell'italiano nel mondo. Adesso più della metà dei connazionali che risiedono fuori dai nostri confini, quindi oltre 2 milioni di persone, è giovane, ha meno di 35 anni, ha un lavoro soddisfacente, una casa di proprietà, spesso anche in Italia, e una vita sociale gratificante. Talmente gratificante che più della metà degli italiani laureati, soprattutto in materie scientifiche, che si trovano all'estero, giudica improbabile un rientro in Italia. Franco Pittau, coordinatore scientifico del rapporto. Tra gli italiani nel mondo ci sono molti giovani, la maggior parte è giovane. Questa è una cosa suggestiva in un mondo globalizzato, perché pensare che noi abbiamo quasi 4 milioni di cittadini italiani, 60 milioni di oriundi, ci mette a disposizione una rete straordinaria che permetterebbe alla nostra società in crisi di risollevarsi, di diventare più innovativa, più competitiva. La cosa che impressiona per chi pratica gli italiani nel mondo è questa capacità che hanno gli italiani all'estero di innovarsi, e quella capacità che servirebbe anche all'Italia per superare questo momento difficile. Roberta Pellegatta, GR24, Il Sole 24 Ore. E restiamo proprio all'estero con la nostra Giulia Crivelli, che ogni giorno ci porta sulle pagine dei giornali stranieri. Ciao Giulia. Ciao, oggi c'è un po' d'Italia sui giornali stranieri, ecco. Italia positiva, diciamo. Il supplemento, diciamo, culturale di Le Figaro dedica un grandissimo spazio alla Biennale dell'Architettura di Venezia, l'undicesima, soprattutto spiegando come questa volta più di altre ci sia questo sposalizio riuscito tra l'architettura e l'arte contemporanea, che ovviamente, oltre a magari proporre delle soluzioni che poi non si tradurranno veramente in edifici o in arredamento, però sicuramente poi è una fucina di idee. Quindi quello che dovrebbe essere appunto una fiera di questo tipo, non tanto una soluzione chiave in mano, ma riunire le idee più brillanti e magari farle diventare qualcos'altro. Giulia, c'è anche la vicenda dei turisti sequestrati in Egitto. Tra loro c'erano degli italiani, fortunatamente stanno bene, tutto si è risolto. Ovviamente la notizia è sulle pagine internazionali. Sì, naturalmente si parla di questo sequestro, sappiamo che le modalità di rilascio non sono chiarissime, se ne parla anche sui giornali tedeschi perché alcuni degli ostaggi erano tedeschi. Quello che però circola sui siti e sui giornali anche egiziani è il tentativo di rassicurare tutti quanti, perché l'Egitto naturalmente ripone nel turismo grandissima parte delle sue risorse economiche, e l'Italia tra l'altro è tradizionalmente uno dei paesi da cui vengono più turisti, e quindi sì, le autorità egiziane rassicurano, continueranno i viaggi, continueranno i safari nel sud, non ci devono essere preoccupazioni perché il nostro paese è sicuro. Grazie Giulia Crivelli, che ritroviamo naturalmente domani con le pagine dei giornali stranieri. Adesso Anna, un aggiornamento sull'ultima ora che riguarda il sindacato. Sì, è riunito il direttivo della CGIL, poco fa vi abbiamo dato un flash sulle parole di Epifani. Ricordiamo che siamo anche alla vigilia del nuovo incontro tra Confindustria e sindacati sulla trattativa per la riforma del modello contrattuale. Epifani ha ribadito durante il discorso al direttivo di Corso d'Italia, ha ribadito le critiche al documento presentato da Viale dell'Astronomia, definito non coerente alla piattaforma sindacale unitaria e lo ha bollato come inadeguato. La trattativa con Confindustria, ha aggiunto Epifani, ha esaurito il suo significato. Dobbiamo rilanciare la nostra piattaforma unitaria e chiedere formalmente l'allargamento del tavolo di confronto alle altre rappresentanze datoriali. Molto vicino dunque ad uno strappo. Ed ora parliamo invece dell'economia sociale. Porta le firme di CNEL e Istat il primo rapporto sull'economia sociale in Italia. La fotografia parte dall'ultimo dato Istat disponibile. Oltre 220.000, pensate, nel 99 le istituzioni no profit in Italia, tra organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, fondazioni e ONG. Edoardo Petrarca al microfono di Maria Luisa Pezzali, sentiamolo. I dati più recenti, quelli che fanno riferimento al 2005-2007, vede le fondazioni, ma anche i precedenti, registrano un trend di crescita medio che si aggira sempre sul 15-20%, sia dal punto di vista numerico, ma anche da un punto di vista proprio del numero dei volontari e anche del numero degli occupati. E credo che nessun settore in Italia cresca così tanto come questo. Credo che sia proprio questo il segnale buono, ecco, di un'Italia che, pur nelle sue difficoltà, continua a investire nella solidarietà, non solo nel produrre valori, relazioni, ma anche producendo appunto buona occupazione e anche, per certi versi, ricchezza. Se andassimo a sommare tutto il giro, tra virgolette, di risorse che ruotano attorno al terzo settore, così come viene raccontato in questo rapporto, parliamo davvero di miliardi di euro, quindi per di più quasi tutte di origine privata. Questo credo sia un segnale davvero importante in questo tempo un po' faticoso. C'è una peculiarità italiana del terzo settore rispetto alle realtà esterne all'Italia? L'area che più emerge e si evidenzia è che è ancora una grande risorsa per il Paese, credo che sia ancora il volontariato, cioè questi milioni di volontari davvero volontari, cioè volontari significa per me ancora dare il proprio tempo gratuitamente, credo che sia un aspetto molto peculiare dell'Italia. Insieme devo dire anche le cooperative sociali, che anche questa è una vicenda tutta italiana copiata anche da altre nazioni. Su questo siamo diversi un pochino, ecco, del resto dell'Europa, che mi pare più professionalizzata, più impresa sociale. Questo era l'intervista a Edoardo Petrarca, coordinatore della ricerca CNEL Istat sull'economia sociale in Italia. E ora spazio ai libri. È un periodo in cui i libri ci propongono spesso le vicende di adolescenti tormentati e in difficoltà. Nel romanzo Gli effetti secondari dei sogni, pubblicato in Italia da Mondadori, la francese Delphine de Vigan racconta la storia di due ragazzine. Lou, 13 anni, vive in una famiglia segnata dal dramma. Più intelligente dei suoi coetanei, frequenta una classe avanzata dove però è isolata. No, invece, ha 18 anni, è nata da uno stupro, fa il giro di diverse famiglie affidatarie e poi finisce per strada. L'incontro fra le due è casuale, come ci ha raccontato la stessa autrice. J'aime bien et c'est important pour moi dans le roman l'idée qu'elles se rencontrent par hasard. La cosa sulla quale ho voluto insistere è che queste due ragazze si sono incontrate per caso. Apparentemente non hanno niente in comune. Si conoscono in una stazione, dove Lou va spesso per guardare la gente. Lou le chiede una sigaretta. Lou rimane affascinata da questa ragazza che vive per strada, nonostante le differenze sociali. Ma a ben vedere, hanno qualcosa in comune. Ognuna, a suo modo, è un'emarginata. Entrambe vivono una grande solitudine. Entrambe sono alla ricerca dell'amore. E dans une grande quête d'amour, toutes les deux. Lui ha l'abitudine di andare appunto nelle stazioni a guardare la gente. Tende a vivere un po' le emozioni degli altri. Perché? C'est une petite fille dont l'univers est complètement refermé. Questa ragazzina vive in un mondo che si è chiuso su se stesso, dove la madre è molto depressa, sta sempre al buio e non prova più alcuna emozione. Il padre, invece, sembra un campione del buon umore, ma fa finta. Tutto è finto in casa di Lou. E così lei va nelle stazioni per cercare la vita, le emozioni vere. Va a vedere gente felice di incontrarsi, o triste perché si deve lasciare. Va alla ricerca della vita vera. C'est la vie qu'elle va chercher, je crois, dans les gars. E questa era Delphine de Vigan, autrice di Gli effetti secondari dei sogni, pubblicato da Mondadori. Un saluto da Alessandra Tedesco. Bocciato il piano Bush, l'America trema e lavora al piano B. L'Europa incalza, la Casa Bianca si assuma le sue responsabilità. Inflazione in calo a settembre al 3,8%. Intanto sui contratti la CGIL annuncia lo strappo. Epifani, sui contratti trattativa esaurita. Blitz all'alba, in carcere i killer di Castelvolturno. Maroni, la guerra alla camorra continuerà finché non sarà vinta. Contrattacco di Veltroni, Berlusconi bugiardo su Alitalia, dice siamo preoccupati. Ressa di fedeli in un tempio indù, in India crolla un muro, 180 i morti. Gli italiani nel mondo sono quasi 4 milioni, 60 milioni quelli con origini nel bel paese, sono giovani, laureati e non hanno alcuna intenzione di tornare. Ed è tutto per questa edizione del GR Extra Large, il coordinamento di Daniele Biacchessi, regia Filippo Aureggi, in studio Alessio Maurizi. E Anna Migliorati, l'appuntamento come sempre con le notizie Extra Large da domani alle 13. GR 24, il sole 24 ore, direttore Giancarlo Santalmassi.